tempo di sport. Troppo presto per chiudere il mondiale e per allontanare le emozioni che devono essere, è giusto che siano dilatate ancora nel tempo, ancora per qualche ora. Amici di Radio 24, buon pomeriggio da Massimo Callegari. Erano le note del coro che ha celebrato per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte la vittoria della Spagna mondiale, con l'esultanza per le vie di Madrid, per la Gran Via, per tutte le strade, con 1 milione di persone che hanno giustamente reso omaggio e onore alla nazionale di Del Bosque, rappresentata dai suoi uomini e dal suo rumoroso speaker Pepe Reina, il portiere del Liverpool, uno dei due portieri di riserva di Casillas, l'altro è il catalano Víctor Valdés, il secondo portiere della nazionale Pepe Reina, che ha celebrato dal palco uno a uno tutti i suoi compagni. Poi è salito anche il figlio del tecnico Del Bosque, che ha alzato la coppa, lo ha fatto nel corso della festa, dei festeggiamenti che hanno naturalmente racchiuso anche il passaggio dal re Juan Carlos e da Zapatero, che si sono congratulati con la nazionale di Del Bosque. 800 24 00 24, il numero per le vostre chiamate. Immagino che siate ansiosi anche di dare le vostre prime impressioni sulle prime ore di allenamento dell'Inter di Benitez. Ci saranno già i nostalgici di Mourinho, ci saranno invece quelli che, come Luigi Garlando oggi sulla Gazzetta dello Sport, sono pronti a dare grande fiducia all'ex tecnico di Liverpool e Valencia. Messaggi SMS al 349 238 6666, anche alcuni brani di Ancelotti, che in un'intervista interessante ha espresso i suoi pareri sul mondiale, sul presente e sul futuro della nazionale e anche del campionato italiano, oltre che del suo Chelsea. Ma appunto, prolunghiamo ancora un po' le emozioni del campionato del mondo con Filippo Maria Ricci, che ci ha accompagnato in questo mese mondiale e ci ha raccontato il crescendo anche di emozioni della Spagna, e ha vissuto anche ieri una festa che faticherai a dimenticare, immagino. Filippo, bentornato. Beh sì, sicuramente, sicuramente è stata una festa impressionante, direi. Insomma, spesso si usano aggettivi un po' a caso, si forza un po' la mano. No, in questo caso io così a occhio ho scritto che si trattava di 2 milioni di persone. Marca dice 2 milioni e mezzo, altri dicono 1 e mezzo, insomma, comunque al di là di tutto ci sono state migliaia e migliaia di persone che si sono prese, veramente hanno rischiato l'insolazione stando lì ad aspettare questi ragazzi per ore e ore e ore, innaffiate dagli idranti, perché comunque qui le temperature vanno ben oltre i 40 gradi, e il tutto con una, così come si può dire, una manifestazione di affetto. Per prima cosa che definirei naturale, e secondo molto gioiosa, e ricambiata da questi che sembrano veramente ragazzi molto tranquilli, molto, molto lontani da, no, da certi isterismi, da certe scene, sì, da Star System alle quali alcuni dei loro colleghi ci hanno abituato. Filippo, si è parlato molto, c'è oggi anche un articolo esaustivo in questo senso da parte di Roberto Perrone, addirittura su Corriere della Sera, che fa risalire al 1999, al Mondiale Under 20, l'inizio di questo patto tra giocatori delle varie regioni della Spagna per allontanare queste differenze, perlomeno nell'ambito calcistico. Si è parlato di questo. Credi davvero che questo successo, il modo in cui è arrivato, il modo in cui l'hanno vissuto, il modo in cui hanno trasmesso le loro emozioni i giocatori, possa aiutare il paese ad avere una sua identità diversa e un po' più unita rispetto alla sua storia, o stiamo un po' esagerando questo concetto? Sì, esatto, stavo pensando un po' esattamente questo. Non bisogna esagerare. Uno, sì, il 99 in realtà c'erano tre giocatori diciamo di questa nazionale qua, c'erano Casillas, Xavi e Marchena. Il gruppo nasce in realtà e nel 99, cioè 11 anni fa, la Spagna era veramente un'altra nazione, perché questa è una nazione che corre tanto, che ha corso tanto, adesso si è un attimo schiantata contro un muretto di crisi economica, però per tanti versi continua a correre, per cui era troppo diverso. Questa nazionale, questo gruppo, questo sentimento di unità avvolto nella bandiera spagnola nasce nel 2008, quando la Spagna batte l'Italia nei quarti di finale e praticamente spezza la maledizione dei quarti, spezza la maledizione di perdere con l'Italia e vola verso il titolo europeo che aveva conquistato nel 64, quando lì veramente era veramente un'altra Spagna. Adesso questa, a me la cosa che è piaciuta molto sono stati per esempio i dati dello share televisivo. Ovviamente la finale è stata è l'evento televisivo mai più visto nella storia della TV spagnola. E siamo arrivati a punte dell'85-86% di share, però il dato importante è che anche in Catalogna e nei Paesi Baschi si è arrivato ad uno share del 70%, e questo dice che comunque lì, anche in queste regioni, a forte tendenza indipendentista, molto antispagnole, comunque la Spagna, la nazionale, la Roja tira, la Roja piace. E l'altro giorno a Barcellona c'erano probabilmente 100.000 persone in piazza, molte con la bandiera spagnola, non si vede mai una cosa del genere a Barcellona. Quindi in questo senso ci sono dei movimenti importanti. Quando Del Bosque dice no, io spero che l'unità che c'è qui coinvolga anche il nostro paese, sia auspicabile, è auspicabile anche per il nostro paese, dice una grande verità. Questa riunione, questa Spagna ha unito il paese. Poi dopo, qui parliamo di sport, dopo si entra in un terreno politico che è molto molto più complesso, e quindi per questo non bisogna esagerare, però senz'altro un evento di questo tipo ha aiutato, e adesso per vedere quali saranno i frutti bisognerà aspettare ancora qualche tempo. Tu sicuramente lo conosci e hai imparato a conoscerlo in maniera un po' più approfondita rispetto a quanto possiamo fare noi da qui dall'Italia, ma ti aspettavi un Pepe Reina così showman come è stato ieri, con tutti i suoi compagni chiamati uno a uno, con l'abbraccio, con i cori che la gente seguiva? È stato veramente l'uomo che ha monopolizzato l'attenzione della serata. Guarda, sì, me l'aspettavo, perché aveva fatto lo stesso 2 anni fa. E loro qua fanno noi abbiamo le osterie, no? le canzoncine sulle osterie, molte anche un po' sboccate, loro qua usano la canzone del cameriere, per cui chiamano il cameriere e lui dice una frase divertente, o una battuta, una filastrocca, e si era rivelato appunto al mondo 2 anni fa a Plaza de Colón, era stato sensazionale, e ieri sera, nonostante la stanchezza, si è ripetuto. Perché non dobbiamo dimenticare che questa gente che non ha dormito la notte dopo, ha giocato una finale, l'ha vinta, una botta di emozione incredibile, poi è salita sull'aereo proprio perché Reina ha fatto un casino tremendo tutto il viaggio, dicendo qui non dorme nessuno, era il suo coro di battaglia, sono andati dare un attimo a farsi la doccia, poi dal Re, poi dal Zapatero, e poi quest'anno questo grande viaggio in mezzo alla folla. Lui lì infatti ha chiuso dicendo un mal di testa tremendo, si è ricordato, a me quello che ha colpito non è solo il fatto che sia un grande showman, ma anche le cose che ha detto erano molto carine, molto affettuose, e uno per uno tutti i giocatori, gente anche che non gioca mai, gente che è a immagini, uguale, lui ha messo sullo stesso piano di una democrazia assoluta tutti i giocatori, con delle frasi molto molto divertenti, molto molto belle. Era uno show per mai volgare, mai e infatti oggi i giornali lo esaltano nuovamente, perché lì è facile metterci una mezza parolaccia, una battuta un po' sboccata. Sì, non c'è una festa in Italia, ad esempio, di club in cui non scappi qualche bandiera in più, qualche striscione in più, no? Quindi è vero. Sì, è vero. No, ma lui uno per uno, ma con una grazia, un affetto. E infatti poi i giocatori poi lo adorano, e questo è il portiere di riserva, cioè, esatto. Se uno vuol dire far gruppo, questo è uno che non ha giocato un minuto nel mondiale, e finché ci sarà Casillas non giocherà mai, però è uguale, e infatti anche il conduttore della serata, che poi era quel Carlos Latre, che faceva l'imitazione di Cassano quando Cassano era qua, molto divertente, e gli ha reso omaggio in maniera assoluta, da showman a showman, insomma, questo Filippo, è veramente... Sì, ti rompo un attimo, abbiamo il traffico e poi ancora qualche minuto con te. Ci sono già un paio di ascoltatori all'800 24 00 24, ancora un attimo di pazienza e poi saremo da voi. Ci sono anche messaggi, Filippo Mariarici da Madrid, al 349 238 6666, in cui si contesta un po' di esterofilia esagerata da parte di noi italiani, nel senso che Angelo dice: ieri avevate parlato di festa naturale gioiosa con centinaia di feriti, siamo sempre gli stessi italiani, osanniamo le altre rappresentazioni. Lo stesso dice Michele di Valenza, ieri si diceva che avremmo dovuto imparare dagli spagnoli, 2 morti, 100 feriti, cosa ci puoi dire rispetto a queste osservazioni? No, allora, i morti, uno è caduto da un balcone, che quindi voglio dire, cioè, non è che l'hanno buttato giù, cioè, e l'altro anche mi sembra, non so, non mi ricordo, ma è una morte casuale. E no, gli scontri sono stati a Barcellona, ma qui attenzione, qui uno potrebbe subito pensare: ah, vedi, allora dice festeggiano e poi si ammazzano tra catalani e spagnoli. No, a Barcellona ogni volta che vince il Barcellona succedono le stesse cose, ovvero scene tremende, ci sono una serie di persone che, diciamo, non aspettano altro, per cui vanno in centro e si scontrano con la polizia. Questo è un classico da più o meno da quando il Barcellona vince e si è ripetuto anche per la nazionale. Questo, cercano lo scontro con la polizia, si tratta di ultras, poi insomma non entriamo nemmeno troppo nel merito. Ieri sera qui a Madrid c'erano veramente milioni di persone, non è volata una mosca. No, in questo senso devo dire invece grande, insomma, io non so di solito delle ultime feste in Italia come sono andate, cosa è successo, però devo dire che in realtà non voglio dire che noi dobbiamo imparare, non ho detto assolutamente questo, io ho semplicemente, la cosa che dico è che qui è stata una bellissima festa. Poi è chiaro che quando si coinvolge un intero paese può anche succedere qualcosa, e comunque gli episodi di Barcellona sono esattamente figli di questa natura, insomma. Per cui per me, insomma, dico, è stata una bellissima festa. L'ultima cosa prima di andare dai primi ascoltatori, già vedo Christian da Genova, Riccardo da Cuneo che sono pronti. C'è voglia adesso di pensare a Maicon, a Mourinho, a Guardiola, a Ibrahimovic in Spagna? Sì e no, adesso diciamo per ora no, poi arriverà questa voglia, arriverà più avanti. Adesso oggi per esempio Mourinho torna dalle vacanze, e adesso il Barcellona comincia il Real Madrid giovedì, il Barcellona la prossima settimana, e tante squadre si sono riunite da ieri, e ci sarà tempo per questo. Adesso i calciatori, gli eroi se ne vanno in vacanza, e secondo me se ne riparla così un po' più avanti. Per esempio qui non si sa neanche quando comincia il campionato. Ancora c'è un'atmosfera ancora molto molto rilassata. È giusto così. L'evento è stato troppo importante, troppo grande per la Spagna, per cui poi dopo la Liga con le sue beghe tornerà. Ecco, per ora io chiudo dicendo solo, diciamo, l'enorme commozione dell'Espagnol di fronte al gesto di Andrés Iniesta, che voglio dire, per me supera qualsiasi altra cosa, perché questo è un derby sentito, quello nel momento storico del calcio spagnolo, decide di mettersi una maglietta per un amico che giocava nella squadra rivale, insomma, ecco, lì è qualcosa di nuovo. Non è che voglio dire che dobbiamo imparare, però questo è stato un gran bel gesto, insomma, ecco. Bene, grazie davvero Filippo per tutti questi contributi mondiali, a prestissimo. A voi un abbraccio, ciao. Ciao, grazie a Filippo Mariarici dalla Spagna. Diceva giustamente la dedica di Iniesta, la commozione dell'Espagnol, che ha dedicato una pagina sul suo sito a Iniesta, che si era ricordato di Dani Jarque nel momento in cui ha esultato per il gol. Un gesto indimenticabile è stato definito dal sito dell'Espagnol. Dunque, i primi ascoltatori all'800 24 0024, Christian da Genova, buon pomeriggio. Pronto, buongiorno. Io chiamo perché volevo fare le due domande. Volevo dirle innanzitutto se secondo lei è un caso che l'Olanda sia arrivata in finale quest'anno, che diciamo che rispetto agli altri anni la multirazzialità era molto minore rispetto agli altri anni, quindi non c'erano neanche tante tensioni interne legate a ciò. Ma un po', poi... sì, no, no, le rispondo una domanda alla volta, così eventualmente dialoghiamo anche. C'era qualche tensione, ne abbiamo parlato in questo mese, non tra giocatori bianchi e neri come in passato, ma tra Van Persie e Snyder, ad esempio, e all'interno non c'era un equilibrio di spogliatoio così, così solido, perlomeno dal punto di vista umano. Poi si sa che il gruppo è una cosa, la squadra è un'altra, ed è importante che sia la squadra, cioè quando si è in campo, che si aiuti e ci sia solidarietà. Non credo che sia dipeso da questo, credo che in buona parte il cammino sia stato anche fortunato, non solo per gli episodi ma anche per gli abbinamenti che ha avuto l'Olanda. Al di là del Brasile non ha affrontato avversari di altissimo livello come ad esempio la Spagna, tra ottavi e semifinale con Portogallo e Germania, e in passato certamente questo era stato invece un freno. La seconda domanda? E poi volevo chiedere riguardo la Spagna, perché tutti dicono la più forte eccetera, però non è che magari questa vittoria è legata anche al fatto che in Spagna hanno una legislazione sul doping un pochino più leggera? Basti pensare ai vari casi Valverde, al Nadal, Contador eccetera. Bah, qui entriamo in un campo delicatissimo. Sicuramente se ne è parlato in passato, non solo riferito al calcio, soprattutto ad altri sport, anche se poi nell'operazione Fuentes, se ricordiamo, si diceva che quando era stato accennato alla possibilità che ci fosse qualche calciatore coinvolto, l'inchiesta era stata poi contenuta e limitata. Noi non possiamo dire in questo momento che la Spagna ha vinto perché c'è una legislazione di un certo tipo, ma questo non si può dire assolutamente, perché non ci sono state prove, non c'è nulla che ci possa indurre a dire con certezza quello che lei ha ipotizzato. Parliamo del passato, parliamo di sport individuali, parliamo di sport di fatica, parliamo di sport. Non possiamo pensare che il calcio sia immune dal doping come Blatter ci vuole far credere, però non possiamo neanche dire altro finché non ci sono riscontri oggettivi da controlli incrociati e di vario tipo. Riccardo da Cuneo, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. So che è una trasmissione sportiva e non politica, però l'avete tirata in ballo voi, l'unitarismo della nazionale spagnola. Io faccio presente che in Catalogna esiste una nazionale di rugby a 13 iscritta regolarmente come nazionale catalana alla Federazione Mondiale di Rugby a 13. Esiste, mi pare, una squadra di pallamano nazionale catalana iscritta alla Federazione Internazionale. Sì, c'è anche la nazionale di calcio, che però non è riconosciuta, ha fatto amichevoli anche con l'Argentina, esatto, con altre. Sì. Ha avuto anche qualche problema. E tra l'altro domenica si è svolta una manifestazione in favore dello statuto, sì, molto autonomo e molto come si dice, valorizzante dei valori catalani, con 1,5 milioni di persone. Quindi sì, peraltro le manifestazioni in Catalogna sono diverse rispetto a quelle dei Paesi Baschi, c'è proprio un'identità che è vero, è molto forte, ma il modo in cui si manifesta la ricerca di questa autonomia è molto più politico e molto meno violento rispetto a quanto accade nei Paesi Baschi, ad esempio. 8/11 di barcellonesi, giocatori del Barcellona, non tanto per una questione di Spagna, almeno questa è una mia ipotesi, ma non penso di sbagliare di molto. Comunque vi saluto e vi ringrazio, arrivederci. Va bene, grazie a Riccardo da Cuneo. Mirko dice: beh, a maggior ragione, se la cosa si ripete ogni volta che vince il Barcellona significa che tanto civile all'avanguardia non sono, siamo sempre pronti a zannare gli altri. E poi c'è Silvio che chiede se c'è qualche coro contro Mourinho a Madrid, ma insomma per adesso è un po' prestino. A Madrid sicuramente no, perché si porta dietro la celebrazione molto ben calibrata al Camp Nou, quando già era ben consapevole che sarebbe andato a Real Madrid nell'arena dei grandi rivali, e quello già gli basta per arrivare a Madrid senza avere cori contro, anzi con un buon credito. Poi dopo si tornerà ad affrontare il tema del modo di giocare a calcio, del modo di vincere, del Real, eccetera eccetera, ma ci sarà tempo e modo di parlarne. Però tra poco parleremo anche di questo, parleremo di Balotelli, perché di lui hanno parlato sia Ancelotti che Benitez. Lo faremo anche con voi naturalmente, ancora per raccontarci quello che vi è rimasto dei mondiali e quello che ci attende poi per quest'estate di calciomercato e non solo, e per la prossima stagione italiana e internazionale. Bentornati, con lato pundici della Gazzetta dello Sport, che vi sottopongo con qualche osservazione in attesa delle vostre, anche l'800 24 00 24, anche se ci sono già altri ascoltatori in linea. Casilla si importa, Lam e Fusile i due esterni a destra e a sinistra, Puyol e Friedrich i due centrali in difesa, Thomas Müller, Sneijder, Schweinsteiger e Andrés Iniesta a centrocampo, Forlan e Villa coppia offensiva. Piqué mi è sembrato più convincente di Puyol, che tra Svizzera all'esordio e Olanda in finale è costato qualcosa, nel senso che è costato il gol degli elvetici e poteva costare il mondiale quando Robben lo ha bruciato con quello scatto fotonico. Friedrich ha fatto un ottimo mondiale, ma anche Juan è stato il migliore giocatore del Brasile. E oltre a Fusile del Porto, che avevo già notato più volte in Champions League, devo dire che è stato impressionante anche per la qualità tecnica, sicuramente superiore all'uruguaiano. A sinistra Fabio Coentrao, il laterale difensivo del Portogallo. In attesa delle vostre valutazioni andiamo avanti all'800 24 00 24. Marco da Mantova, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Io volevo sottolineare la semplicità e stare sempre dietro, diciamo, le quinte dell'allenatore del Bosque. Giusto. E l'umiltà soprattutto nel chiedere ai giocatori, alla federazione, di far portare per qualche secondo la coppa a suo figlio che ha un problema, ecco. Sì. Proprio, io credo che alcuni allenatori devono imparare questa cosa qui. Sì, è vero, sicuramente quel momento lì è stato uno dei più emozionanti che si ricordino nella storia delle celebrazioni sportive. È la conferma, credo, che non esiste un unico modo di allenare, non esiste un unico modo di gestire un gruppo di lavoro, che sia una squadra in ambito sportivo, che sia un gruppo a livello aziendale, quindi in ambito professionale. Ed è la conferma di quanto ha sostenuto anche in passato Carlo Ancelotti, quando si contrapponevano il suo stile a quello di José Mourinho, che ognuno alla fine porta poi nella sua quotidianità quello che è realmente dal punto di vista personale. Questo emerge anche nella sua professionalità. Questo è ciò che ci rimane di Del Bosque, che peraltro non va dimenticato, perché poi spesso poi oscuriamo con il nostro giudizio sulla figura personale, quello tecnico. Non va dimenticato che Del Bosque è un allenatore che dal punto di vista tecnico ha lavorato benissimo a Real Madrid, ha trovato un grande equilibrio in una squadra che lui ha allenato e ha fatto vincere, giocando un ottimo calcio nel 2000 e nel 2002 quando vinse la Champions, e anche in finale con i cambi che ha effettuato, al di là di quello di Fernando Torres, che è stato sbagliato solo perché si aspettava probabilmente che il ragazzo riuscisse con una forza mentale a superare i problemi fisici. Però l'inserimento di Navas e quello di Fabregas sono stati determinanti, con la capacità di lasciare comunque Xabi più avanzato rispetto a Fabregas, che però a differenza di Xabi Alonso ha accompagnato molto di più l'azione ed è stato decisivo non solo nell'assist per il gol, ma anche in altre situazioni. Pino da Brescia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ascolti, niente, io volevo parlare di Balotelli, no? Ah. Secondo me è tutta una manovra sotterranea di Mino Raiola, che vuol far fare la stessa fine di Ibrahimovic, perché lui è attaccato al denaro, signori. Lui chi? Raiola. Eh sì, ma perché poi ogni trasferimento tanto di un suo assistito per lui è una telenovela. Sì, no, poi insomma ogni trasferimento di un giocatore per lui è denaro, nel senso che poi si sa che gli agenti guadagnano quando possono trasferire un loro assistito da un club all'altro. Certamente c'è moltissima strategia nei viaggi di Raiola dall'Italia ad Amsterdam a Manchester, ammesso che poi tutti questi viaggi avvengano realmente con incontri così avanzati. Però è altrettanto chiaro che se l'Inter fosse contraria a questo tipo di situazione e non avesse l'idea, non contemplasse l'idea di far partire Balotelli, probabilmente, anzi sicuramente, Raiola si muoverebbe in maniera molto più accorta. Evidentemente l'Inter valuta che Balotelli possa essere cedibile, che sia cedibile, e dunque tutto quanto poi fa Raiola è a vantaggio dell'Inter. Non sappiamo quanto a vantaggio del giocatore, che ad esempio con questa uscita dal sindacato calciatori o con il ritardo di 7 minuti di ieri ha commesso altre ingenuità che, insomma, sommate a tutte quelle precedenti, continuano a alimentare i dubbi sulla sua personalità e sulla sua capacità poi di resistere in un grande gruppo. Adesso vi faccio sentire, a questo proposito, a questo punto, Ancelotti su Mario Balotelli, quello che ha detto nell'intervista che ha rilasciato ai colleghi di Sky Sport, perché qui Ancelotti dice una cosa che poi andiamo ad analizzare insieme. Eccolo. Manchester United è una squadra che ha grande tradizione, che esalta le caratteristiche di questo tipo di giocatori, che giocando gioca quasi sempre con le due ali, e quindi per caratteristiche sarebbe una squadra adatta a lui. Qui l'ambiente è diverso, ripeto, quindi credo che un giocatore con questo tipo di carattere, caratteristiche, secondo me si potrebbe trovare anche meglio rispetto all'Italia. Ma è difficile trovare un giocatore così giovane con queste qualità, non è semplice, neanche in Inghilterra fa fatica a trovare giocatori di questo livello. Questo dice Ancelotti di Mario Balotelli, che potrebbe raggiungere Alex Ferguson al Manchester United. È tutto condivisibile, però bisogna anche saper stare all'interno di un gruppo, e su questo Balotelli deve dare molte risposte, e questo non dipende e non è condizionato dal luogo, dalla nazione in cui si sta, perché in un gruppo di grandi campioni in Italia, in Inghilterra e in Spagna bisogna sapersi comportare in un certo modo. Non è possibile che un giocatore che comunque è sempre seguito con tantissima attenzione da tutti, dai suoi compagni, ancora prima che dai mezzi di comunicazione e dai dirigenti, arrivi il primo giorno di ritiro dopo una serie di settimane in cui è vero ha fatto la maturità, ma comunque di vacanza dalla sua professione, in ritardo di 7 minuti. Significa che probabilmente non gli interessa neanche tanto chi gli sta attorno. Arriva lì, si allena e poi se ne va. Lo faceva anche Ronaldo in parte, però insomma Ronaldo, quello vero brasiliano, era un'altra cosa. Piero dalla provincia di Frosinone. Buon pomeriggio. Salve. Buon pomeriggio. Volevo dire che alla Spagna, a me mi sembra, sì, complimenti alla Spagna, però mi sembra un po' sopravvalutato tutte le elogi alla Spagna. Ad esempio? Ma io dico io voglio dire Casillas è un grandissimo portiere, quello che ha fatto con Robben penso è spettacolare. È sdraiato, insomma, Robben come la metteva lui la prendeva. L'ha presa con i piedi. Beh, se l'avesse messa alta da quella parte, no, però. Se l'avesse messa alta dalla parte in cui l'ha messa, non ci sarebbe arrivato Casillas. Ma comunque, io voglio dire, no. Se la Spagna avesse perso il suo portiere, come l'abbiamo perso noi, diciamo, alla prima partita, non lo so, perché la Spagna con la Svizzera, quando è andato sotto di un gol, non è riuscita a recuperare la partita. Sì, è vero, però aveva giocato un'ottima gara e comunque ha avuto occasioni anche nella parte finale di quella partita con la Svizzera in cui non meritava di perdere. Pronto? Sì. Dico, ha un grandissimo gioco, una grandissima possesso palla, come l'ha avuto il Portogallo negli anni scorsi. Però io voglio dire che gli azzurri sono stati criticati un po' troppo, perché comunque hanno fatto sempre un gioco corretto gli azzurri. Vabbè, ma non siamo mica, come dire, non era una prova di correttezza il mondiale, cioè si può anche fare. Sì, non è la prova di correttezza, però la Spagna ha avuto 5 palli che ho visto dalla finale degli olandesi, non lo so, non l'ho mai visto. Vabbè, ma la Spagna cosa c'entra? La Spagna ha vinto anche il premio Fair Play, ha avuto solo 5 moniti, mi sembra, o 7 moniti in tutto il mondiale, quindi noi purtroppo abbiamo fatto 2 punti, siamo arrivati dietro la Nuova Zelanda in un girone tra i più accessibili del mondiale, quindi insomma non abbiamo scusanti quanto alla Spagna, mi sembra che è vero. Casillas è stato determinante, aveva alle sue spalle due portieri che sono sicuramente più forti dei nostri in questo momento, che sono alle spalle di Buffon, perché Reina del Liverpool e Victor Valdés del Barcellona sono due ottimi portieri, diversi per caratteristiche e per stile, ma sono due ottimi portieri, due ottime alternative, con qualcosa in meno, è chiaro, rispetto a Casillas. Massimiliano da Modena, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buongiorno. Buongiorno. Beh, io volevo condividere con lei il peggior giugno calcistico della mia esistenza, nel senso che io, tifoso del Toro e tifoso della Nazionale, in poche settimane ho sofferto tutto quello che si poteva soffrire, chiaramente. E soprattutto è un peccato, credo, che l'avventura del Mondiale, che comunque al di là dell'aspetto calcistico è una festa ed è anche un momento in cui unisce il paese, in un momento in cui credo il paese ne avrebbe anche molto bisogno, per noi è durata talmente poco, non abbiamo neanche avuto quasi la possibilità di gioire, di soffrire, nessuno pensava di vincere, credo, di nuovo un Mondiale. Però mi sorprende il fatto che sembrasse veramente la storia di un disastro annunciato, sì, no? Cioè, sembrava veramente che ci fosse questo Titanic che andava verso un iceberg e che tutti sapessero che lì c'era l'iceberg e che il nostro commissario tecnico, a cui chiaramente dovremmo sempre riconoscenza per una stella in più e il cui credito è rimasto, però veramente si è cercato di eroderlo, ci è quasi riuscito veramente questa volta, perché... Sì, è vero. Mi dice, dopo devo lasciarla per il traffico, in 10 secondi sì. Sei contento del nuovo Toro di Lerda? Sì, molto. Spero che finalmente avremo un gioco, perché almeno io sono anni che non vedo giocare il Toro bene. Tra l'altro, per questo spero che finalmente sia l'allenatore giusto, anche per farci almeno vedere del bel calcio. È vero. Serie B è giusto pretendere da una squadra come il Torino. È vero. In bocca al lupo, Massimiliano, lei è al Toro. Bentornati altri ascoltatori all'800 24 0024. Daniele da Sassuolo ha scritto al 349 238 6666. Secondo me, se Balotelli va allo United, diventerà veramente uno dei più forti giocatori del mondo. Mentre Alberto chiedeva perché non era stato considerato il messicano Salcido, che aveva giocato effettivamente un buon mondiale. Poi lì siamo nell'ambito delle valutazioni personali, però Fusile uruguaiano e ancor più Fabio Contrao portoghese in quel ruolo di esterno sinistro sono stati di altissimo livello. Peraltro Contrao è l'unico mancino di questi tre, gli altri sono giocatori di piede destro che però giocano a sinistra. Salcido milita da 4 anni, dal 2006 nel PSV Eindhoven in Olanda. Ci sono 3 ascoltatori in linea, però prima di andare da loro vi faccio sentire a questo punto anche Rafa Benitez, sia in conferenza stampa, su Mario Balotelli. Lui è un giocatore importante, un giocatore di livello, voglio parlare con lui questi giorni e conoscerlo un po' più come persona e dopo ci vediamo, perché sempre i giocatori di qualità sono buoni per tutte le squadre. A questo punto tutti sono giocatori importanti per me. Se un giocatore di qualità devo vederlo, devo conoscerlo in campo, vedere come lavora, la sua mentalità, e dopo parliamo con la società. Ma sono giocatori nostri, no, giocatori nostri di qualità, dobbiamo parlare con loro. Oggi l'Inter ha svolto il primo allenamento agli ordini di Rafa Benitez, che poi si è intrattenuto con Cambiasso, Javier Zanetti, Cordoba, per così le prime impressioni generali. C'erano anche i cancelli aperti alla Pinetina con 1000 tifosi presenti. Paolo da Bologna ha chiamato all'800 24 0024. Buon pomeriggio. Pronto? Sì, prego. Sì, pronto, buon pomeriggio, saluto a tutti. No, nulla, voglio dire che io sono un fan incredibile di Xavi Iniesta, scritto tutto unito. Per me sono due giocatori straordinari. Sono condizionato dal fatto che mia moglie è di Barcellona e ho la fortuna spesso di poter andare allo stadio Barcellona a vederli. Per me sono davvero una testa con 4 gambe, uno di fianco all'altro, sono una cosa sola. Gli darei il pallone d'oro unica volta nella storia a due giocatori assieme, un unico pallone tutti e due. E credo che si sia visto anche il fenomeno Messi, senza i due dietro, che secondo me è contato molto. Niente, volevo dire questo. Va bene, grazie Paolo. Aggiungo che il rendimento di Messi con la nazionale argentina è sempre stato molto ridotto rispetto a quello nel Barcellona. La conferma è che ormai nel calcio moderno, lo si vede anche con Cristiano Ronaldo nel Portogallo rispetto a quanto fa nei suoi club o ha fatto con United e Real Madrid, nel calcio moderno appunto non c'è un giocatore che da solo sia in grado di rendere al massimo delle sue potenzialità senza l'assistenza dei compagni. Già Sacchi lo diceva 25 anni fa ai tempi di Maradona, figuriamoci ora che tutti conoscono tutti in ogni parte del mondo, l'organizzazione è totale anche per le squadre di più basso livello tecnico. Quanto a Xabi Iniesta, è vero che ragionano come se avessero un'unica maniera di pensare e una testa con quattro gambe, come ha detto lei, però è anche vero che Iniesta dal punto di vista dell'incisività nella fase finale dell'azione è un giocatore imprescindibile, non che Xabi non lo sia, però quando è mancato Iniesta il Barcellona ha perso quell'imprevedibilità e quella capacità di variare il suo gioco che è stata poi fatale. È accaduto nelle due semifinali di Champions con l'Inter, è accaduto nella gara iniziale del Mondiale con la Svizzera. C'è una comunicazione anche di servizio in cui mi viene segnalato che in zona Chioggia Rovigo Ferrara non si sente, quindi probabilmente i problemi tecnici, come spesso succede, verranno immediatamente risolti. C'è anche un altro sms di Luca da Treviso in attesa di altri due ascoltatori che sono già pronti in linea. Dice, a proposito della finale, Van Bommel è un picchiatore scientifico, andava espulso anche con l'Uruguay che sarebbe stato comunque eliminato con l'Olanda. Grande Uruguay, mi ha commosso, se solo l'Italia ci avesse messo la metà del cuore che ci ha messo la Celeste. Ha ragione, caro Luca. Mario da Milano, buon pomeriggio. Mi hai rubato la parola in questo commento finale. Ah. Io sono cugino di Becalossi, l'altra sera eravamo al ristorante. Me lo saluti, Evaristo. Se dessero 40 milioni di euro a Moratti, tu Balotelli lo cederesti a una concorrente. Mi ha detto, tu sei uno di quelli che l'anno scorso, quando abbiamo venduto Ibrahimovic, ti sei strappato i capelli. L'Inter non è una squadra, come diceva lei, che ha dipendenze da un giocatore. Anche Maicon ha 30 anni, se danno quei soldi lì che se ne vada. Sì, è un po' meno sostituibile però, Mario. No, dico, Maicon è un po' meno sostituibile per il ruolo e per la capacità che ha. Quest'anno è stato un po' criticato in alcuni momenti, ma alla fine 6 gol e 11 assist in campionato è una cifra per un terzino destro che è spaventosa. Persona da un grande giocatore. Balotelli, se ha quella testa lì, vuole andarsene, che se ne vada. Mettono lì quei soldi lì. E l'anno scorso dice abbiamo vinto 3 titoli, non credo che Balotelli abbia fatto tantissime partite. Quindi sono d'accordo che se vuole andarsene che se ne vada. Beh, però insomma è stato molto d'aiuto in alcuni momenti di campionato, ad esempio Udine giocò una partita pazzesca quando l'Inter era in grande difficoltà dopo le squalifiche post Sampdoria, segnò quel gol in caduta, l'assist per Milito, è stato decisivo nella gara molto importante che l'Inter non aveva giocato particolarmente bene con il Rubin Kazan in Champions nella parte finale del girone. Quindi è un giocatore che fa cose che non si vedono fare, ma non solo a ragazzi della sua età, anche ad altri. Il problema è che appunto bisogna poi anche sapersi comportare nell'ambito di un gruppo, e quello che Balotelli ha fatto già nel corso della stagione ha dimostrato che lui su questo aspetto deve maturare molto. Poi su quello che è fuori dal campo oggettivamente non è il caso di giudicare, e non è quello che fa la differenza, è quello che si fa quando si è lì con tutti gli altri nell'ambito dello spogliatoio, quando ci si allena, quando si deve rispondere all'autorità di un tecnico che decide, e lo fa sempre nell'interesse suo e della squadra. Paolo dalla provincia di Alessandria. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Devo dire che nei mondiali del 2006 noi abbiamo avuto molta fortuna, perché con la meno male che l'abbiamo avuta, abbiamo avuto un arbitro che mi sembra con l'Australia ci ha dato un rigore alla fine che non c'era. Sì, un rigorino. Un rigorino, esatto, se no non vincevamo neanche con la Coppa. E poi Zidane, che ci ha dato una bella testata, ci ha aiutato. E questo è uno. La Spagna ha meritato molto più di noi, anche se io sono tifoso dell'Italia, chiaramente, perché ha giocato meglio di noi. E Van Aanegen, il 6 e l'8 e un altro, e anche Schneider doveva essere ammonito. Le dovevano finire in 8 perché l'Olanda ha picchiato con l'Argentina, mi sembra, e anche con l'Uruguay. Gli arbitri l'hanno difesa parecchio, più che quando abbiamo giocato noi i mondiali del 2006. Complimenti per la trasmissione, vi sento per radio, grazie, grazie. Grazie Paolo, dalla provincia di Alessandria non c'è tanto da aggiungere, poi insomma la fortuna aiuta quelli che se la cercano e nessuno ha mai vinto un torneo, non un campionato. Il campionato si sviluppa in un ambito di tempo, in un arco di tempo così ampio che la fortuna ha un'incidenza minore. Nessuno ha mai vinto un torneo che si sviluppa nell'ambito di un mese o comunque una Champions in cui ci sono momenti decisivi così frequenti senza avere un appoggio dalla buona sorte, e quindi l'abbiamo avuta noi, l'ha avuta un po' la Spagna, l'ha avuta soprattutto nella partita con il Paraguay e l'ha avuta anche l'Olanda, e per buona sorte si intende chiaramente anche in alcuni momenti una concessione arbitrale, come del resto ha avuto la stessa Spagna in semifinale con la Germania, perché c'era un intervento duro su Schweinsteiger da cartellino rosso e da calcio di punizione al limite dell'area. Chiudiamo con Carmine da Firenze, prego. Pronto? Sì, è in linea. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, volevo sapere, io parlavo per quanto riguarda il calciomercato. Ho sentito oggi diciamo del Milan che sì, diciamo non può fare il mercato perché ci stanno alcuni giocatori, Kloski, Oddo, insomma Calate, che rifiutano delle società, sì, altre squadre. Secondo me non è accettabile una situazione del genere. Beh, sono professionisti, possono decidere cosa fare nella loro carriera, no? Sì, però se te non sei come si dice arruolabile per una squadra, dovresti capire da te, insomma, che dovresti lasciare il posto a qualcun altro, insomma. Sì, però evidentemente non è solo questione di capire da sé, come dice lei, di lasciare il posto ad altri, c'è anche una situazione economica vantaggiosa e ci sono altre dinamiche, non solo tecniche, che intervengono nella decisione di un calciatore. Ne parleremo ancora da domani e nei prossimi giorni. Chiudiamo con un messaggio al 349-238-6666. Simone da Padova: da quel poco che ho visto e sentito, l'era Benitez è agli antipodi rispetto a quella di Mourinho. Credo che se non altro godrà di una stima notevole da parte anche della stampa, dei colleghi, dei tifosi avversari e detto da un milanista come me. È tutto dire, grazie a voi, a Filippo Reggi in regia, a Flavio Suardi in redazione, a domani con A Tempo di Sport su Radio 24 da Massimo Callegari.